Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La prendo dalle braccia della mamma che non mi aiuta, non si spiega, non mi dice che cosa sia accaduto, cosa fondamentale in quel frangente di tempo. La piccola non respira e ora ce l'ho in braccio. Sono Paolo, ho 52 anni, vivo a Lonigo in provincia di Vicenza. Sono sposato, ho due figlie e una grande passione per la scrittura. Spesso capita che utilizziamo gli argomenti delle storie che raccontiamo ogni giorno, in questo caso la storia di Paolo ad esempio, come una metafora, cioè usiamo quell'argomento che magari è molto specifico e facciamo una metafora che ribaltiamo sulla vita di chi ascolta. Oggi invece non lo facciamo in metafora, oggi vi chiediamo quello che è successo a Paolo, quello che ha fatto Paolo, proprio in maniera letterale, testuale. Avete mai salvato la vita a qualcuno? 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma che è Voi siete qui Radio 24 o il profilo Twitter che è Voi siete qui R24. Buongiorno a tutti, sono le 16:08 minuti in diretta da Milano, il programma è Voi siete qui, io sono Matteo Caccia e questo ovviamente è sempre Radio 24. Già sul profilo Facebook qualcuno ha scritto: Cristina, fatto, dice, hai salvato la vita a qualcuno, fatto, portato un collega in ospedale, shock anafilattico. Susanna, strappata un'amica da sotto una macchina avendo notato che il crick si stava inclinando e quindi la macchina sarebbe crollata. Tiziano, ho salvato la vita a mia mamma quando ero piccola, avevo 16 anni. 349-238-6666. Oggi non parleremo degli Oscar di Sorrentino, non parleremo di Conte Prandelli e l'altro, chi è? Chiellini. No, oggi noi racconteremo storie, faremo sempre quello che facciamo tutti i giorni, cioè vi chiediamo di condividere un pezzo della vostra vita, un episodio che vi è accaduto e che in qualche modo vi racconta, in qualche modo racconta un pezzo della vostra vita, e vi chiediamo semplicemente di raccontarlo. Se avete voglia di farlo, ringrazio tutti quelli che continuano a farlo. Abbiamo un indirizzo email che è sempre quello, che è Voi siete qui @radio24.it. Una storia rappresenta qualcosa per voi, ma di solito lo rappresenta anche per tutti gli altri. Se è una storia, cioè se ha un inizio, se ha uno sviluppo e se ha una fine, non serve una morale, non serve che educhi, non serve che insegni nulla. La forza delle storie è quella lì: uno, che ti intrattengono; l'altra è che sono un esempio e che sono di solito più forti di qualsiasi teoria, perché sono qualcosa che è successo. Ecco, oggi devo fare un disclaimer, perché se per caso siete facili, troppo facili all'emozione, se avete problemi, avete la lacrima facile ad esempio, o se siete emotivamente in difficoltà, ecco, forse oggi non è la puntata per voi. La puntata di oggi, la storia che ci ha mandato Paolo, quando l'abbiamo letta tutti quanti abbiamo avuto quella sensazione di... wow, questa qui è una roba forte che in qualche, ti tocca da qualche parte, anche se non sai fare quello che ha fatto lui, anche se non hai figli, se non hai nipoti, in qualche modo è una puntata che ti arriva comunque lì, esattamente dritta lì. 349-238-6666. Immaginate di essere nel 2010, quindi 3 anni fa, siete in giro per lavoro, anzi avete appena finito il lavoro e state andando in un centro commerciale, soprattutto è l'antivigilia di Natale. Una nebbiolina densa si condensava sul parabrezza della mia macchina. Erano quasi le 7 di sera ed era buio. Quel giovedì del 2010 era l'antivigilia di Natale. Le persone affollavano i negozi per le strade ed era quasi impossibile parcheggiare vicino ai centri commerciali. Ero uscito da poco dall'ufficio e, come molti, non avevo avuto ancora il tempo per ultimare gli acquisti per Natale. Mancava ancora il giocattolo preferito di Aurora, mia figlia, quella più piccola. Così mi stavo dirigendo in mezzo a quel fumo bianco verso un centro commerciale di San Bonifacio, dove avevo la certezza che avrei trovato quanto stavo cercando. Nel parcheggio molte persone caricavano i bagagliai delle loro auto con spese enormi in vista delle festività. Bambini felici, bianchi e rossi, si rincorrevano tra le auto parcheggiate, finché i loro genitori sistemavano gli acquisti. Presi l'ascensore e salì assieme ad un gruppo di persone al piano terra. Entrai nel centro commerciale, facendomi largo tra le persone che, piene di sportine e carrelli, cercavano di uscire. Giunto alla cassa principale del centro, mi avvicino per chiedere dove fosse quanto andavo cercando per Aurora. e in quel mentre noto una signora di colore, probabilmente marocchina, che con una bimba in braccio a ciondoloni corre verso di noi, cercando disperatamente di comunicarci qualcosa. Il piccolo fardello che la mamma tenta a fatica di sorreggere sembrava non avere la spina dorsale. Cadeva inanimata da tutte le parti. In uno dei movimenti della piccina scorgo in un baleno gli occhi diversi e un colore delle labbra cianotico. Capisco in una frazione di secondo che la ricciolina bellissima è in difficoltà. La prendo dalle braccia della mamma che non mi aiuta, non mi spiega, non mi dice che cosa sia accaduto, cosa fondamentale in quel frangente di tempo. La piccola non respira e ora ce l'ho in braccio. Con un colpo di braccio libero un tavolo dalle cartacce, sdraio la bambina. Cerco di ascoltare se respira, ma c'è troppo rumore. Allora verifico se le vie aeree sono libere e scorgo qualcosa in fondo alla gola, ma non penso minimamente di estrarla col dito per paura di spingerla ancora più pericolosamente in giù. Giro la piccolina tenendo il suo mento con la mano sinistra. Mi inginocchio, il suo corpicino è disteso lungo il mio braccio. Inizio la manovra di Heimlich per infanti. Colpisco il dorso della piccola schiena col palmo della mano destra, cercando di effettuare attraverso i suoi polmoni la pressione necessaria per espellere il corpo estraneo. Nel frattempo grido al capannello di persone che si sono formate di chiamare il 118. Mentre la madre è seduta a terra e sta piangendo a dirotto, arriva anche il padre, che evidentemente non capisce che cosa io stia cercando di fare per la sua bambina e tenta di togliermela. Lo spingo via mentre con la mano sinistra infilo un dito in bocca alla piccina per capire se esce qualcosa. Sono secondi che durano un'eternità e finalmente qualcuno trattiene il padre, che urla qualcosa che non capisco. Si tratta di applicare nell'adulto una pressione abbracciando l'adulto da dietro e mettendo le mani in un determinato modo all'incirca al di sotto dello stomaco, dello sterno, e fare delle compressioni particolari in modo tale da agevolare una bolla d'aria che da sotto vada verso l'alto, verso la trachea, che possa espellere qualche corpo diciamo estraneo e ingerito in modo sbagliato. Sdraio la piccola sul tavolo di schiena per capire a che punto è l'oggetto che ostruisce le vie aeree. Le labbra sono sempre più blu e comincio ad accusare un senso di impotenza, che però contrariamente mi stimola a fare ancora di più. E allora ancora la manovra di Heimlich. Testina in giù, mento nella mano sinistra, corpicino inclinato verso il basso, steso sulla mia gamba. Colpisco la schiena una volta ancora e ancora e ancora. Sul dito che l'ho messo in bocca sento come se la lingua stesse forzandomi. La metto su un fianco, su quel tavolo bianco che non scorderò mai. Noto un agglomerato di qualcosa giallastro che aggancio col dito ed estraggo velocemente. La piccola scoppia a piangere. Respira, mio Dio, respira e piange. Io, quando la bambina si è ripresa, mi sono messo in disparte perché nel frattempo erano arrivati i soccorsi, l'automedica. Ho guardato i genitori, che la mamma stava piangendo, era seduta in un angolo per terra disperatissima, il papà era lì vicino. Poi io me ne sono andato perché ero visibilmente scosso anch'io di questa cosa che mi era accaduta così, e quindi non li ho più visti né neanche rincontrati nello stesso supermercato. Non so più nulla. Ce l'abbiamo fatta, la mamma piange in modo incontenibile e riabbraccia la piccolina. Nel frattempo è arrivata un'automedica che inizia a svolgere le verifiche di rito. Io mi trovo in un angolo mentre guardo la piccolina piangere ancora disperatamente. Forse aveva intuito che cosa le stava accadendo. Io mi sono avvicinato al personale del 118 e ho cercato di spiegare che cosa avessi praticato alla piccina, ma forse non mi hanno nemmeno sentito. Sono uscito dal centro senza fare compere per Aurora. Ho cercato la mia auto, sono salito e sono scoppiato in un pianto di sfogo enorme, come quando ero bambino, con fiumi di lacrime. Qualche anno prima avevo partecipato ad un corso per soccorritori della durata di 3 mesi. Lo feci perché, avendo 2 bambine, non volevo farmi trovare impreparato nel caso ci fosse stato bisogno di intervenire all'istante. There's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe. Si è sempre impreparati quando si tratta di affrontare situazioni difficili. Tante volte si cercano ottimi motivi per girarci attorno e non stare invece nel cuore della questione. Facciamo così perché ci costa fatica, perché non ci sentiamo all'altezza, perché non troviamo le parole giuste oppure non sappiamo che cosa fare. Ma quando ci si sbatte contro, non ci si può tirare indietro. La storia di Paola ha una data precisa, è successa il 23 dicembre del 2010. Quello stesso giorno, poco prima di cominciare la trasmissione, ho spedito un SMS con scritto «Sono in studio e sto un po' piangendo». L'ho spedito perché quel giorno finiva un incubo che in parte ha riguardato anche me. Quel giorno, dopo 20 giorni passati a lottare, Ada tornava a casa. Tutto era iniziato il primo di dicembre di quell'anno. Mauro, il mio amico, stava tornando in macchina dal dentista quando lo chiamano dall'asilo nido per avvisarlo di passare prima della chiusura a prendere Ada, sua bambina di un anno, perché aveva qualche linea di febbre. Quando arriva, però, trova una situazione ben diversa da quello che si immagina. Ada ha una crisi respiratoria. Nella concitazione del momento, intanto, c'è il papà di un altro bambino che sa che cosa fare e, senza chiedere il permesso, si mette in mezzo in attesa di rinforzi. Sdraia Ada su un fianco e le pratica una manovra. Oltre a combattere per salvare la vita, la protegge anche fisicamente dal baccano che si è creato intorno, facendole scudo col corpo e non permette a nessuno di mettersi in mezzo. Le parla a bassa voce per restare concentrato e non lasciarsi condizionare dal caos. La sua manovra dura per più di mezz'ora. Poi arriva l'ambulanza, caricano Ada e la mamma, che nel frattempo è arrivata, e corrono in ospedale. Mauro invece sale su una volante e fa strada insieme ai poliziotti. Quando se ne vanno, al nido crollano tutti, le maestre, le bidelle e i bambini. Crolla anche quel padre che le ha salvato la vita. In ospedale, intanto, la bimba passa al pronto soccorso in codice rosso. Nessuno capisce cosa sia successo, ma nel frattempo viene sedata e portata in terapia intensiva. Ecco, da quel giorno, Mauro e Giulia, la sua compagna, stanno nel piazzale davanti al reparto e aspettano. Aspettano di fare una visita, uno per volta, mezz'ora al mattino e mezz'ora al pomeriggio, oppure di vedere un medico davanti a una macchinetta del caffè per rubare qualche informazione. Loro non riescono a stare in nessun altro posto, devono stare lì. Poi, dopo 20 giorni, la situazione migliora e la vigilia di Natale, finalmente, nel primo pomeriggio, Ada torna a casa. Il mio SMS di quel giorno è la risposta alla notizia e da allora tutto è tornato a posto. A parte lo spavento, mi racconta sempre Mauro, i ricordi più forti di quei giorni sono legati ai bivacchi davanti al reparto con gli amici, a cui partecipai anch'io, o ai pediatri della terapia intensiva e alle maestre, quelle del nido. Questo però fino a pochi mesi fa, fino a quando un sabato mattina Ada viene invitata a un compleanno di bambini. Quel giorno sono a Roma e Mauro mi prega di accompagnarlo. La portiamo, mangiamo due pizzette e ti porto in stazione, mi dice. I compleanni sono la cosa più noiosa dell'essere padre. Quando arriviamo, effettivamente gli do ragione, i bambini urlano e gli adulti si annoiano. Siamo pronti per andarcene quando entra un padre con suo figlio e Mauro lo riconosce. È lo stesso padre che quel giorno di quasi 3 anni prima al nido l'aveva salvata per primo. Loro due non si erano mai presentati e nemmeno mai più visti da quel giorno. Gli facciamo vedere Ada, lui ci racconta che da studente viveva con un epilettico e per questo aveva imparato le manovre di prima assistenza. Fanno finta di niente, ma nessuno dei due riesce a finire una frase. Non riescono a trattenere l'emozione. Si salutano con in sottofondo la danza del serpente cantata dai bambini e poi ci avviamo in stazione in silenzio. Sembra un attore Paolo nella foto che ci ha mandato, per quel che significa, sembra un attore. Ha i capelli bianchi un po' scompigliati, la barba bianca, la foto è in bianco e nero. Lui ha la mano appoggiata sul mento e guarda un po' nel vuoto. Più che un attore, ecco, sembra un po' Philip Seymour Hoffman Paolo in questa foto. Addirittura. No, nel senso, forse perché ne abbiamo viste tante in questi ultimi giorni, purtroppo, quindi ero un po' influenzato. Come stai? Bene, bene, bene. Dove ti trovi adesso, Paolo? Adesso sono qualche centinaio di metri da casa che sto tornando a casa e sono qui, sono fermo in macchina. E perché hai preso un permesso da lavoro o di solito finisci a quest'ora? No, oggi avevo un permesso di lavoro perché ho dovuto fare altre cose, ho fatto delle visite all'ospedale, quindi ho dovuto perdere un po' di tempo così. Okay. Un po' di tempo così. Intanto la tua storia ha veramente scaldato gli animi anche e soprattutto di quelli che hanno fatto un gesto come il tuo, che in qualche modo hanno salvato una vita. Marco, salvata ragazza inglese che stava annegando, Grecia 1983. Ho salvato mia moglie che si stava strozzando con una mozzarella, con la stessa mossa del protagonista, cioè la tua. Oggi stiamo divorzando, aggiunge Luca. Scusami Paolo, l'hai fatto di proposito questo corso di rianimazione? Sì, sì, sì. Ma non dovrebbe essere obbligatorio in qualche modo per i genitori? Infatti, secondo me sì, però non è che c'è una legge che lo stabilisce. Sarebbe importantissimo che tutti fossero in grado di fare almeno i rudimenti, le cose essenziali per poi chiamare intanto il 118. Ma scusami, se uno volesse, ma anche un non genitore tipo me, a chi ci si rivolge? Ci sono le USL che organizzano proprio dei corsi anche gratuitamente o comunque con una minima spesa. Io mi ricordo avevo speso sulle 100.000 lire, una stupidaggine, ma proprio di materiale che poi ti danno durante il corso, è propedeutico e quindi non spendi alla fine niente perché lo dovresti comunque comprare. E poi ci sono dei medici che ti fanno il corso, ci sono dei professori interni nell'ospedale, venivano proprio fuori quelli di... Io lo feci a suo tempo a Montecchio Maggiore con i soccorritori di Montecchio, che sono delle bravissime persone e si rendono sempre anche disponibili per le manifestazioni a titolo gratuito. E quelli sono veramente degli angeli. Paolo, senti, però immagino, no, che in questo corso uno faccia tutte le simulazioni del caso, non so cosa avete, delle sorte di bambole, giusto? Quando... Ci sono dei manichini, proprio che hanno il peso corporeo uguale, hanno delle articolazioni uguali all'essere umano, lo stesso peso, e quindi si fa, diciamo, la manovra proprio lì. E ti posso garantire che anche se è un manichino, in quel momento lì il cuore ti schizza perché hai veramente l'adrenalina al 100, perché ecco, ti immedesimi come fosse nel vero. Però Paolo, quando poi invece lo fai in un supermercato l'antivigilia di Natale, immagino sia un'altra cosa, giusto? Sì, tu ti sei stupito della tua prontezza, del fatto che istintivamente tu abbia fatto le cose giuste? Guarda, sono sincero, io sono un grandissimo fifone, però da sempre, anche quando trovo gli incidenti per strada, mi fermo sempre e presto il mio soccorso finché non arriva la gente, poi me ne vado via. Però poi sto male cane 4-5 giorni di fila, magari do anche di vomito e via dicendo, però in quel momento do anche di vomito, sì, è l'espressione che non sentivo dalle elementari, è bellissima, do anche di vomito. Però insomma, evidentemente ti parte qualcosa di più forte di te. Assolutamente sì, assolutamente sì. Senti, dicevi già durante il racconto, tu non hai più visto i genitori, non hai più visto la bambina. Scusami, quando invece dici che tu cerchi di comunicare a quelli del 118, però loro probabilmente non ti sentono perché sono troppo perché impegnati. Perché loro erano comunque lì impegnati a capire che cosa era successo alla bambina, cercavano di capire se aveva ancora qualcosa nelle vie respiratorie, perché la bambina era comunque diventata ormai cosciente, ma aveva ancora le labbra ancora viola, quindi era da pochissimi istanti. Ma invece che cos'era sto oggetto, scusami, l'abbiamo capito? Allora, non so se avete presente quei fiocchi di mais, di patata, che ne so, che si gonfiano, tipo i Dixie, ecco, adesso per fare un nome. Ah, certo. Hai capito, quei fiocchi di patata? Sì. La bimba, poverina, non è messo in bocca, si vede che con la saliva si è gonfiato questo affare e le ha proprio otturato la gola giù in gola. Ho capito. Quindi insomma una sorta di patatina, una roba da mangiare, sì, che sì, è andata di traverso. Scusami, Margherita mi diceva che ti è capitato di rifarla poi ancora questa manovra, ma con un adulto. Sì, è un disastro. L'ho dovuta rifare, ma non proprio con la manovra di Heimlich, per fortuna. Una mia collega di lavoro a ottobre, novembre, si è sentita male ed era stata proprio priva di coscienza per moltissimo tempo. Allora ho dovuto mettere in posizione di sicurezza, ho dovuto tirargli fuori la lingua dalla bocca perché si stava soffocando. Ed è andato tutto a posto? Sì, Ma sei il nostro eroe! No, Paolo, assolutamente poi hai dato di vomito per un paio di giorni. Senti, devo salutarti Paolo e ringraziarti, ma voglio chiederti, che regalo era quello di Aurora poi? Quello di Aurora era un bambolotto particolare che aveva un dischettino dietro, tipo quelli di una volta, di tantissimi anni. Che cosa fa? Canta, parla. Sì, la bambola che parla, esatto, la roba del genere. Paolo, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Grazie Matteo, ciao. Buona giornata. Ciao, grazie, ciao. Comunque, insomma, se volessi star tranquillo, io comunque Paolo me lo terrei di fianco, no? Così, giusto per sicurezza. Ho preso per i capelli un giovane pescatore caduto in un canale pieno d'acqua a Zane, in provincia di Vicenza. E poi ancora, salvato una bambina caduta da una finestra del secondo piano. Presa al volo. Tre costole rotte, le mie, ma ho sofferto con gioia. Selmer da Vicenza. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata. Se avete voglia di raccontare storie, se queste storie vi fanno venire in mente altre storie, voi siete qui, @radio24.it. Noi siamo qui per raccoglierle e per raccontarle di nuovo. Se avete voglia invece di continuare ad ascoltare questo programma, vabbè, tutti i giorni siamo qui, alle 16, alle 5 e un quarto del mattino, ma anche in podcast dal sito di Radio 24. Sul nostro sito, alla nostra pagina, trovate anche tutti i brani che mandiamo e che Tiziano sceglie apposta per questo programma. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina, grazie soprattutto a Mauro Pescio e a Paolo. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Lorenzo, vengo da Canegrate, la storia di domani è la mia e parla di diventare papà. Questa è la mia storia e io sono qui.